bandido, por un bandido, es un bandido, solo un bandido. Era un bell'uomo, un solo uomo, un uomo solo e il suo cappello nero in uno scoglio alto come una sella, sedeva in mezzo al mare. Narra da mille, mille facce scheletrite, urlando l'odio, la fame ed il dolore, le nostre idee sole, la che dite, il suo schianto re redentore. Solo un bandido, or un bandido, bandido, bandido, es un bandido, or un bandido, bandido. Operaio, ma levato la fame, lo ricordo, lo sguardo fisso e il suo portoferraio, l'ala spezzata di un corvo, braccia aperte al povero bambino, malato e stanco per il lungo errare, braccia aperte al povero bambino, malato e stanco per il lungo errare, solo un bambino. Por un bandido, es un bandido, por un bandido, bandido, por un bandido, bandido, bandido, por un bandido. Aperti al povero bandido, malato e stanco per il lungo errare, braccia aperti al povero bandido, malato e stanco per.